tutti e di tutte per il sostegno alla Palestina, al popolo palestinese. In questo momento ci rendiamo conto che c'è il rischio che le mobilitazioni vadano ad affievolirsi, ma secondo noi questo è invece il momento in cui bisogna spingere di più l'acceleratore per mantenere viva l'attenzione. Perché liberare la Palestina vuol dire innanzitutto liberare tutte e tutti noi. Quindi adesso iniziamo con questa intervista. Con in studio c'è anche Chiara, che gentilissimamente farà da traduttrice. Quindi faremo le domande, ci sarà una prima risposta in inglese e poi ci sarà la traduzione. E quindi inizierei subito con la prima domanda, ringraziando di nuovo Amjad per essere qui con noi e per chiedergli come è andato il suo viaggio per arrivare qui e come mai è qui in Italia adesso, a Milano. First trip was, my name is Amjad Rifai and I am from Askar refugee camp in Nablus. And let me say that the trip was very difficult for me to go out of Nablus, as always, because Nablus now surrounded by checkpoints and the gates and settlements. So it is not easy to go out of Nablus. Here in Europe, you can travel for hundreds of kilometers without anyone ask you any question. But in our country, when you want to go from Nablus, an example, to Ramallah, to another city, and it's far away, 60 kilometers between Nablus and between Ramallah, you must to pass at least 10 checkpoints, and sometimes you are not succeed to enter to another city, because you will take another ways, not the main streets, and you must be between the villages and between the small towns to go to there. And it is because of the settlers and the settlements. So when I come here, it was like very, very difficult. First, I wake up very early to be on the checkpoint, not a lot of cars. And when I am near the checkpoint, I spend at least 1 hour in the checkpoint just to go out of Nablus. After that, there is a lot of settlements and settlers in the way, so it's scary, and you are under big risk when you want to leave. When you want to leave from Palestine to Jordan, you must to pass the Palestinian borders. It's not borders, but let me say that it's a check, security check for the Palestinian. After, between this and Israel border, you need 3 hours at least. And it's just 1 kilometer. They stop you in the bus, and this bus is for Palestinians. At least you spend in the bus 2 hours. They let all the Israelis to go out, and the VIP and all of these people. And after, they look at the Palestinian buses. So it's need more than 3 hours just in this 1 kilometers. And after, you will go to the Jordanian, and after you leave where you want. So it was very difficult. Niente, appunto, alla risposta come è andato il viaggio, in realtà è stato molto difficile, dice Amjad. È un viaggio estremamente difficile per la presenza appunto di checkpoint e di insediamenti. Stiamo parlando, diciamo, lui si stupiva effettivamente che qui invece siamo, o quantomeno non è abituato a viaggiare per centinaia di chilometri senza che nessuno ti controlli, perché effettivamente la situazione in Palestina è estremamente più difficile. In particolare, appunto, parlava della possibilità, per esempio, per andare da Nablus a Ramallah ci sono 60 chilometri. quindi una, diciamo, una strada che noi percorreremo circa in 40 minuti. Nel caso appunto della fra Nablus e Ramallah ci sono però più di 10 checkpoint. Oltretutto, anche una volta passati 10 checkpoint, comunque non puoi fare le strade principali, devi passare dai villaggi e dalle cittadine più piccole, dove ci sono di nuovo i settlers, insomma gli insediamenti, quindi è molto complicato. In particolare lui, appunto, per venire qui ha fatto questo difficile viaggio, che è partito con una sveglia estremamente presto. Perché effettivamente ci vuole un'ora solo per uscire da Nablus col checkpoint, e da qui poi ci si muove fra gli insediamenti, e i coloni comunque ti sottopongono a grossi rischi, quindi è molto pericoloso e anche molto faticoso, come dire, emotivamente passare da lì, in particolare per andare verso la Giordania. Non c'è, diciamo, il confine fra Giordania e Palestina, perché di mezzo c'è Israele che fa una serie di controlli, quindi praticamente per fare praticamente un chilometro ci vogliono 3 ore almeno, e questo perché in particolare tendenzialmente un'ora si passa al checkpoint, ma le altre 2 ore si passa fermi nei bus che aspettano tutti i vari VIP, e poi solo in un secondo momento controllano i palestinesi, quindi praticamente solo una volta arrivati lì, quindi dopo più di 3 ore si può arrivare al confine con la Giordania. E questo, diciamo, che mette evidentemente in luce quella che è la normalità della vita di un palestinese, di una palestinese, ed è esattamente quello che cerchiamo di mettere in luce in questo momento, in cui tutti e tutte credono che con il cessate il fuoco la vita per i palestinesi sia migliorata. È migliorata nei termini in cui non gli cadono più in testa le bombe, ma la loro normalità è una condizione di apartheid, di oppressione. E a proposito di questo, io volevo chiedere ad Amjad se a Nablus in West Bank si può percepire una vita prima del 7 ottobre, una vita dopo il 7 ottobre, e se c'è una differenza in cosa si caratterizza e come è cambiato, diciamo, la vita dei palestinesi. Yeah, I think there is big. First, thank you very much for your explanation, because there is. Let me say, there is bomb and there is no bomb. And in West Bank, they don't bomb housing, the buildings and like Gaza. But let me say that they are bombing sometimes, and they are destroyed a lot of Palestinian houses, and they are shooting at the Palestinian, killing Palestinian. And it's occupation. Let me say that's occupation, and it's really very bad occupation. About your question, what's the difference between 7 October and before 7 October? Before 7 October, by the way, Nablus was surrounded by checkpoints, but not the same like now. And the treatment, it was not the same like now, but now I think the treatment from the soldiers are more difficult, and they don't speak with you, just they shoot if they want, and they kill you, and there is no any judgment, any control at them, because they treat now like let me say that's military law, under the military law, and they treat us as we are now a war between us and between them. Before 7 October, there is no a lot of checkpoints in West Bank like now. It was maybe 100, 150, but now you speak about 1,100 checkpoints. This is the and gate. This is the first thing. The second thing, that there is a lot of Palestinian who was working inside Israel. They allowed to go to work inside Israel, and it's economic income for Palestinians, but now it's not allowed for them to go and to work inside Israel because they want to destroy the economic. They want to the Palestinian economic, and before 7 October, the employees was paid from the Palestinian authority, and now after 7 October, the Israeli don't give the Palestinian authority the tax. So it means that there is no Palestinian, let me say, salaries. The hospitals, they don't have the materials because it's this budget from the tax too. The education, it's less, and the schools. Now we have the schools, they don't go, the teachers, they don't go to the schools every day. Now they have just three days because they don't have full salary. So they don't have the money for transportation. And in general, the teachers are poor people whom really very poor, and they're not, they belong to the salary. If there is no salary, they can do nothing. And a lot of things are stopped inside Palestine, like tourists inside Palestine. I have an example. A small restaurant and hostel, I close it since 7 October. So the life are more and more difficult. And I want to say that the Israelis, now they try to do a soft transfer for the Palestinians. They want us to leave the country without shooting, but they make the life more and more difficult. If you don't have good economic situation, there is no good medical care, there is no security, there is no education, so you will leave the country. But we are, as a Palestinian, we love our country, and we will stay in our country, and we will continue, even under the very difficult situation, we will continue to alive and to build our country. The Israelis treat with us since 75 years old, and they don't know us good. We love our country, and we are belong to this country and to this land, and we love Palestine, and we are ready to die for Palestine, but we are not to dream to die. We dream to alive and to continue alive and to make peace inside Palestine and to build our country. Ok, allora intanto ci ringrazia perché insomma è importantissimo parlarne e parlare, continuare a parlare di Palestina nei termini anche in cui si parla spesso di bombe, ma insomma ci sono le bombe e le non bombe, e quindi se è vero che appunto in West Bank non si bombardano così spesso le case, gli edifici come a Gaza, c'è comunque un'occupazione molto presente, ci sono comunque dei bombardamenti e soprattutto ci sono molti episodi di spari proprio direttamente sulla popolazione. Da questo punto di vista Nablus era già circondata da checkpoint, nel senso che ci sono sempre stati ovviamente, però il trattamento adesso è molto peggiore perché le condizioni, come dire, di occupazione sono molto più forti, e quindi per esempio diceva adesso capita che ti sparino molto più spesso senza passare da giudizio, senza niente, e questo perché utilizzano una legge militare come se ci fosse una guerra, come se gli stessimo facendo la guerra, diciamo. E da questo punto di vista i numeri sono abbastanza impressionanti, perché lui diceva già prima del 7 ottobre c'erano in realtà intorno alla zona di Nablus 150 checkpoint, ma adesso stiamo parlando di 1100 fra checkpoint e gates, insomma, e barriere, quindi diciamo un numero esagerato. Una delle altre cose più importanti è che prima tantissimi, cioè c'erano tanti, diciamo, dei palestinesi della West Bank che lavoravano in Israele, e ora evidentemente questa cosa non è possibile. Questo proprio perché Israele vuole distruggere, insomma, l'economia della Palestina, e oltretutto questo succede perché anche chi lavora come dire, in Palestina è pagato dall'autorità palestinese, ma al momento Israele non gli sta dando il ricavato delle tasse, per cui si sta tenendo tutti i soldi, per cui non ci sono salari, non ci sono servizi, le stesse scuole stanno aperte 3 giorni alla settimana, perché gli insegnanti, che spesso sono persone insomma povere, che non hanno grandi risorse, non ricevendo i salari non possono neanche muoversi, e quindi non possono utilizzare i trasporti per raggiungere la scuola. Un'altra delle conseguenze è che anche il turismo si è fermato. Lui parlava per esempio di un ristorante che gestiscono, che ha chiuso dopo il 7 ottobre, e questo è molto importante. Insomma, quello che sta riportando è che Israele sta cercando di fare un trasferimento soft, quindi sta cercando, diciamo, di interrompere ogni flusso economico e di servizi in Palestina, per fare in modo che i palestinesi si spingano volontariamente fuori dai confini, e quindi come dire, magari anche senza sparare, nel momento in cui togli l'assistenza sanitaria, l'educazione, la sicurezza, tutto diventa molto più difficile. Quello che però dice in chiusura di questa domanda è che loro amano la Palestina, che continuano a farlo, e che evidentemente Israele, nonostante l'occupazione di lunga data, non li conosce abbastanza per sapere che loro amano la Palestina e che sono intenzionati a rimanere, e che sono pronti anche a morire per la Palestina. Questo non vuol dire che vogliano morire per la Palestina, loro vogliono stare in una Palestina buona, però, cioè stare bene in Palestina, però insomma quello che sta facendo Israele è cercare di usare un soft power per mandarli fuori. Allora, grazie Angelo per questa risposta. Diciamo che un po' conferma quello che è stato il nostro sentore, di cui quindi questo finto trattato di pace in realtà nasconde semplicemente un'altra fase dell'attacco al popolo palestinese, che evidentemente adesso avviene diciamo non sotto i riflettori, ma in modo più serpeggiante nella Cisgiordania, e diciamo quello che ci racconta Amjad non può che confermarci questo, e quindi imporci in qualche modo di continuare a tenere l'attenzione alta anche su la Cisgiordania, e non solo su Gaza, che nonostante sia stata distrutta e che versi in condizioni disumane. L'altra domanda che quindi io vorrei fare ad Amjad è, vorrei chiedergli se in Cisgiordania c'è una resistenza e come è organizzata e strutturata questa resistenza nelle sue varie forme, ecco. First, let me say that your explanation is very good, and it's fake peace. There is no peace, and I agree about all the things that you said. We must to really look after West Bank, and we must to try to do something for the people inside the West Bank. We are resist by staying in our land first. Second, to fight by non-violence resistance. Our politician people try to make more and more recognition for Palestine, for Palestinian state. And we try to explain to the people out of Palestine about our situation. We struggle with the checkpoints, we struggle with the settlers. And now, an example, we have the olive season to pick the olives, and the settlers don't allow the farmers, and with the protection from the Israeli army. But we are struggle to take our olives and to go to our lands under all these difficulties. And we are resist by staying in our land, as I said to you, and protect our people and our land. This is what we can do. Some of us struggle by weapons, but not a lot for sure, because West Bank not like Gaza Strip. Ok, allora innanzitutto vuole dire che è molto d'accordo con quello che dici, questo è evidentemente un trattato di finta pace ed è molto altrettanto d'accordo che dobbiamo mantenere alta l'attenzione su quello che succede tanto a Gaza quanto nella West Bank. Dopodiché come si resiste? Sicuramente il primo punto è rimanere nella nostra terra, quindi in una qualche maniera frenare quel tentativo di soft transfer che dicevamo prima. Il secondo elemento è quello di una resistenza non violenta e da questo punto di vista si sta in una qualche maniera tentando di fare in modo che sempre più persone, istituzioni e paesi stiano anche riconoscendo quella che è la situazione in Palestina, e da questo punto di vista insomma è super importante spiegare alle persone che cosa succede. Quindi abbiamo parlato dei checkpoint, che è un tema molto importante. L'altro tema importante arriva adesso, che è la stagione delle olive, che è una delle attività insomma tipiche della Palestina, ma che in questo momento è impedita dai coloni, che anche l'esercito impedisce effettivamente di procedere con la stagione delle olive e con la raccolta delle olive. E quindi in definitiva come si resiste? Si resiste rimanendo e proteggendo la nostra terra. E ringrazio anche per questa risposta, che appare semplice, ma invece dietro diciamo che nasconde una grossa profondità. E quindi allora la domanda che in questo momento mi viene da fare è, ripensando a tutte le mobilitazioni che abbiamo messo in campo in questi giorni, in queste settimane qui a Milano, ma anche in tutta Italia, dove centinaia di migliaia di persone, se non milioni di persone, sono scese in piazza per manifestare contro il genocidio in corso in Palestina, per bloccare i porti e le stazioni dove transitano le armi che poi vanno a diciamo commettere il genocidio. La domanda che io faccio è cosa noi possiamo fare, cosa noi possiamo continuare a fare. È sufficiente quello che stiamo facendo, ma soprattutto viene percepito in qualche maniera questa solidarietà che noi cerchiamo di mettere in campo da sempre, ma in particolare in quest'ultimo periodo dove diciamo l'accelerazione della violenza è stata evidente dal punto di vista dell'entità sionista. Yeah, thank you very much again. I think what's happening in Milan, in Rome, in Paris, in London, everywhere in the world, it means that the world is start to change and the world start to understand the Palestinian cause, and that we are, as a Palestinian, have the right to alive and to be free in our independent state. What you are doing is very important, and we feel it, and we are watching that, and we understand what you are doing. You change the world, and I think you are doing well for Palestine, at least in your level, because what you are doing, it's push a lot of governments in this world to recognize Palestine, like an example, like France, like UK, like Australia, Canada, all of this big countries. It's very important, and we are waiting for Italy. I know it's until now it is difficult with the Italian government. Also us. But we are waiting for Italy too, and I hope that one day Italian government wake up and support the Palestinian cause, because we deserve to have our freedom and to stop this genocide. And what's happening in Palestine is really unfair for the Palestinian and for the world and for the people whom support the rights and the freedom in this world. I think what you can do, you can continue struggle and you can continue supporting Palestine politically and financially, and by initiatives. You ask me how we struggle in Palestine and how we resist. Maybe this part I don't answer. We resist by your projects, small projects, by your initiatives too, that you support us in Palestine. The last, an example, at least in our association, the last project was a solidarity economic project, and we make a Palestinian product that's Nablus famous of its soap, and we will send to Europe to sell here in Europe, and the income will come back to the Palestinian woman whom work in this project. So you must to continue boycott, demonstration, and to shouting and for freedom for Palestine, and we need your political support from trade unions, from NGOs, from government. From this is what we can do, because now, as you see, that this initiatives, it's make the world change and recognize more recognizing for Palestine. I think what you are doing is very important, and thank you very much. And I hope we can continue together to fighting for freedom and struggling to get our independent Palestinian state. Ecco, ringrazio di nuovo per la domanda e dice che insomma quello che succede nel mondo, che sta succedendo nel mondo, in Italia ma in generale in tutto il mondo, ci dice che il mondo sta iniziando a capire e sta iniziando a riconoscere l'importanza e l'evidenza del riconoscere la Palestina come uno Stato libero e indipendente. Quello che stiamo facendo, per rispondere alla domanda, quello che stiamo facendo noi qui in Italia è importante, loro lo vedono e lo sentono e dice che stiamo facendo bene, nel senso che quello che le grosse, come dire, manifestazioni, iniziative che stanno attraversando il mondo sono di fatto quello che sta portando anche una serie di istituzioni e di stati a riconoscere lo Stato palestinese. Parliamo della Francia, del Regno Unito, dell'Australia, del Canada. Ovviamente lui dice per l'Italia forse ancora un po' presto, ovviamente insomma ci siamo scambiati qualche battuta e risolino sul governo italiano, che in questo momento insomma non è proprio per la quale, però tant'è, c'è comunque una speranza, e la speranza è data dal fatto, al di là del nostro governo, che si meritano insomma il riconoscimento, perché non è molto unfair, ha detto lui, cioè è molto ingiusto, e oltretutto insomma per la Palestina ma anche per tutto il mondo che supporta il diritto e la libertà. Da questo punto di vista, appunto, è importante continuare a farlo, continuare a scendere in piazza per aumentare il riconoscimento delle istituzioni, ma è anche importante continuare a supportare finanziariamente, in considerazione di quello che abbiamo detto prima, insomma i progetti, i piccoli, anche piccoli progetti che stanno avendo luogo in Palestina e in West Bank. L'ultimo piccolo progetto economico, diciamo, di solidarietà che ci racconta è quello di è un progetto che vede a Nablus la produzione di tutta una serie di prodotti tipici, fra cui in particolare di sapone, che verranno venduti in Unione Europea, insomma in Europa, e che in una qualche maniera torneranno a finanziare e a supportare economicamente la situazione in Palestina. Quindi da questo punto di vista il boicottaggio, la scendere in piazza, quindi le manifestazioni, e in una qualche maniera il prendere parola per la libertà del popolo palestinese È molto importante, così come è importante il supporto politico delle NGO, quindi delle ONG e dei sindacati. In una qualche maniera il mondo sta cambiando e sta cambiando nei termini di un riconoscimento dello Stato palestinese, e quello che si augura, e che mi auguro anch'io che sto traducendo, è che possiamo continuare poi insieme a combattere, insomma, per un riconoscimento e per uno Stato libero. E grazie anche per questa risposta. Io mi avvierei verso la conclusione, e vorrei fare una riflessione che potrebbe anche essere, che voglio condividere, ma anche una domanda così. Nel corso di queste mobilitazioni mi sono reso conto che man mano che manifestavamo, che scendevamo in piazza per quelli che sono, diciamo, i diritti del popolo palestinese, mi rendevo conto che quelle stesse lotte in realtà stavano liberando, o comunque avevano la potenzialità di farlo, di liberare anche noi dall'oppressione che viviamo. E quindi, diciamo che la cosa più bella forse di queste mobilitazioni è stato che abbiamo lottato per cercare di liberare la Palestina con più o meno scarsi risultati o grossi risultati, bisogna vedere a seconda dei punti di vista, ma sicuramente questa cosa è un processo che ha messo in moto un meccanismo di liberazione sicuramente nostra, che ci ha dovuto mettere di fronte a riconoscere di avere dei privilegi rispetto ad altre parti del mondo, e soprattutto alcune delle persone che sono scese in piazza hanno deciso di prendere il loro privilegio e di metterlo, diciamo, a disposizione della causa palestinese per esprimere solidarietà. Quindi la cosa, diciamo, più grossa che noi ci portiamo a casa dopo, diciamo, questo giro che ci auguriamo non sia ancora terminato di mobilitazioni, è sicuramente questa forza, cioè aver capito che lottare per qualcuno vuol dire soprattutto lottare per se stessi, e che quindi, diciamo, questo cambiamento di cui percepisce e ci dice anche Amjad che sente nel mondo, allora forse potrebbe essere che è davvero così, potrebbe essere davvero che stiamo andando in quella direzione. Quindi a sto punto l'invito indiretto che ci viene fatto è quello di continuare a lottare, continuare a pretendere il miglioramento delle proprie condizioni, e che il miglioramento di queste proprie condizioni significhi il miglioramento di tutti e di tutte. Cioè riuscire a capire che questo lottare dove noi siamo protagonisti significa lottare per tutti e per tutte, quindi anche per le persone che non sono qui con noi, lottare per la Palestina e lottare per noi stessi. Quindi io in realtà ti ringrazio, Amjad, per le parole che hai speso, per il tempo che ci stai dedicando, e non so, ti chiedo a livello personale proprio, tu come vedi questo orizzonte, come vedi l'orizzonte adesso per la Palestina? Cioè, sei ottimista, sei pessimista, così giusto per capire, perché qui c'è molto fermento e diciamo che la voglia di continuare a lottare c'è. I want to tell you something. I think now I am wearing this kefir. And this is the sign of Palestine, as you know, and the sign of the Palestinian Revolution. And in 1917 and 1918, even in 1990, this kefia was for terrorists. And now it's signed for freedom and for peace of the world and for resistance of the world. So it means that what you are doing again is great and change the world. And my opinion, you must continue this, because I think now the war now it's by let me say that social media first and by demonstrations and by always we must to be wake up and don't change your opinion about the occupation because it's big lying. They start to big it start in 1917 and until now maybe the world start to wake up very late, but the world start to wake up, let me say, and we must to continue to wake up the other people whom don't understand the situation. Palestine is for Palestinian. I am Palestinian from Jaffa, and I my dream to come back to Jaffa. I don't want to kill anyone. I don't want to throw anyone in the sea as they are lying at the world. I want to live with the people in peaceful, and I like to come back to my city in Jaffa and don't stay in the refugee camp in very bad condition. This is not my dream. It's like a station. The camp is like a station until we come back to our land. So you must to continue struggling. You must to continue supporting the Palestinian and to supporting the human rights in the world. Me too. I like when I see someone live unfair, I like to support him even if I am in very bad conditions too. So all of us together, we are freedom fighters and we are fighting for freedom because otherwise everywhere it will be the same, believe me. So what you are doing again is great. We must to continue struggling and we must to continue even in social media. And I am sure what I am saying is something dangerous for me when I come back to Palestine. But I want to say that they will rent a lot of famous people to change the idea about Israel. And we must to show the world what Israeli doing and what's the meaning of the Israeli occupation. So this is the future world. It's not weapons world. They will start, as I said, to use the famous people to change and to be like nice people. And Israel is the democracy state in Middle East between the Arab and the Arab are. It is big lying and it is big game. That's for the for this occupation and. For USA and for Israel together. Allora, sì, quello che dice lui, insomma, è che intanto insomma, si è indicato la kefia che sta indossando in questo momento. Dice la kefia è abbastanza simbolico da questo punto di vista, perché negli anni 70 e 80 per l'Occidente la kefia era un simbolo legato al terrorismo. E adesso invece la vediamo indossata da tantissimi, come segno di pace e di libertà, un simbolo che è un simbolo palestinese. Come dire, da sempre sta cambiando effettivamente i suoi connotati e quindi da questo punto di vista lui dice bisogna assolutamente continuare perché la guerra si sposta in una qualche maniera dai bombardamenti, in questo caso si combatte con le manifestazioni, con le iniziative e anche attraverso i social media. Da questo punto di vista quello che lui dice è che bisogna mantenere un'attenzione molto alta e mantenere come dire, la connotazione che adesso si dà alla occupazione di insediamento di Israele, che in una qualche maniera è come dire, il frutto di un nuovo riconoscimento, almeno per tanta parte della gente. E quindi da questo punto di vista lui dice la Palestina, cioè quello che stiamo cercando di fare capire è che la Palestina è per i palestinesi. E da questo punto di vista lui dice lui è originario di Jaffa. Il suo sogno è quello di tornare a Jaffa, evidentemente. Questo non vuol dire che vuole mandare via o uccidere nessuno, come invece la finta propaganda israeliana sta in una qualche maniera suggerendo. Non vuole assolutamente mandare via nessuno, ma non vuole neanche rimanere nei campi profughi, nelle condizioni drammatiche in cui si trovano. Per loro, appunto, cioè per lui, quello che stava riportando è che in una qualche maniera il campo profughi si spera che sia una tappa prima di tornare nelle proprie terre. Da questo punto di vista, la lotta per la Palestina è una lotta che in generale abbraccia i diritti umani e che lui stesso, nonostante si trovi spesso, come dire, in una situazione di estrema ingiustizia, quando vede delle situazioni di ingiustizia anche al di fuori di sé, dice che è importante supportarla e che da questo punto di vista noi siamo dei freedom fighters, cioè noi combattiamo per la libertà e quindi appunto continua ad essere importante in Palestina e fuori dalla Palestina, perché se non si combatte per la libertà diventerà così dappertutto. A chiudere, diciamo, questa riflessione, dice una cosa che dice: mi costerà probabilmente qualche problema quando tornerò indietro, ma lo dico lo stesso. Lui pensa che potrebbe, appunto, la propaganda israeliana si potrà giocare in futuro di nuovo su un tentativo di cambiare la percezione che si ha di Israele, che adesso sta in una qualche maniera, di Israele e dell'occupazione, che adesso sta diventando sotto gli occhi di tutti. Quello che dice è che potrebbero essere pagati, come dire, delle persone anche famose, carine, eccetera eccetera, che in una qualche maniera legittimino Israele rispetto al fatto che è una buona democrazia, che è piena di gente carina, che sono appunto le grosse menzogne che in questo momento la propaganda sta mettendo in campo. E da questo punto di vista, appunto, è importante mantenere alto il livello di attenzione anche nei social media, dove si sta giocando una grande partita. Allora, ringraziamo Amjad per questi momenti che abbiamo condiviso. È chiaro che l'invito a tutti e tutte è continuare a lottare e che l'orizzonte è positivo e è il momento di non mollare, di non far calare l'attenzione, perché è proprio questo il momento in cui l'entità sionista approfitterà per estendere il suo dominio anche sulla West Bank. Confermo quello che dice Amjad rispetto alla diciamo tentativo di Israele di ripulire la propria immagine, perché è notizia di questi giorni l'investimento di più di 2 milioni di dollari per riprogrammare le intelligenze artificiali in modo tale che forniscano risposte positive su Israele, cosa che invece in questo momento non accade. E quindi sicuramente sarà importante anche da questo punto di vista continuare a mettere in luce la propaganda sionista e a supportare le realtà palestinesi. Direi che possiamo concludere qui l'intervista. Ci spostiamo al piano di sotto, dove a breve inizieremo l'iniziativa in cui Amjad ci presenterà, diciamo, il progetto della sua associazione, e avremo in collegamento anche Riccardo da Genova dei CALP, che ci racconterà le mobilitazioni che sono iniziate a Genova e che hanno dato, diciamo, il via a questa ondata di fuoco che ha investito l'Italia in questi giorni. Grazie a tutti e tutte, grazie a Chiara per la traduzione perfetta come al solito, e grazie ancora ad Amjad, e grazie a tutti e tutte quelli che ci hanno ascoltato. Buona serata, ci vediamo di sotto. Azzam, in Castello d'Autonomie, Milano Sud, siamo qua. Bella, grazie.